Grazie a lei. Bello essere a Bonzocampo. Sarebbe bello anche entrare in campo. Beh, vedo che voi della Lega Pro l'avete fatto in un contesto veramente particolare, vero dottor Ghirelli? Ma io devo dire che sono nel calcio, nello sport da tanti anni, è stata, la considero la più bella cosa della mia vita sportiva, cioè la gioia che ho visto è stata indescrivibile, cioè di milioni, di migliaia di ragazzi, ragazze, bambine, per la prima volta tra le altre cose tante donne allo stadio, all'inaugurazione di questo stadio, essere messaggeri di pace, strumenti di pace tra la Palestina e Israele è veramente una cosa incredibile, che emoziona. Ecco, come è nata questa iniziativa? Ma è nata in questo modo: il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, voleva trovare uno sport che potesse essere strumento di pace. Carraro, il dottor Carraro, il dottor Pescante mi hanno telefonato, io ne ho parlato con il presidente Macali, abbiamo detto in 25 secondi sì, siamo pronti, andiamo noi. E quindi a questo punto abbiamo costruito un rapporto con la Palestina e con Israele, speriamo che appunto possiamo aver dato un contributo a questa terra martoriata. Qual è l'immagine più viva? Il campo profughi di Aida a Betlemme, uno dei tanti campi profughi, si sono messi quattro mattoni a fare le porte lungo la strada, di fronte al muro, è un muro di 4 metri per 630 chilometri. I ragazzi della squadra italiana hanno giocato con i ragazzi, i bambini di quel campo profughi. Noi abbiamo firmato una convenzione di rapporti, loro torneranno il 26 di ottobre, poi andremo in ottobre a Tel Aviv e la squadra olimpica di Israele tornerà in Italia. Io credo che la tappa successiva a questo progetto deve essere un triangolare. Tenga conto che per i palestinesi era già difficile, non avevano quasi mai giocato sulla propria terra. La gente come ci accoglieva, come ci ha accolto. Il calcio è questo. Il calcio è gioia, il calcio è dare un messaggio in positivo. Quindi lanciamo da bordo campo questa proposta, dopo queste gare che già sono in calendario, il prossimo passo è un triangolare, magari da farsi chissà, proprio qua in Italia. Sì, sarebbe bello, perché vorrebbe dire aver fatto un passo da gigante nella storia di quei paesi. Vede, era un bellissimo spettacolo. Ma per esempio c'erano tanti cecchini intorno, c'erano gli aerei israeliani che volavano durante la partita sopra il campo. Bisognerebbe cominciare a superare quello e forse un triangolare comincia a essere, a utilizzare il vocabolario del calcio, del pallone, che è semplicissimo, che si conosce e si può parlare e interpretare in tutte le parti del mondo, come un grande messaggio di pace, di distensione.